I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. La settimana scorsa le borse sono ritornate ad essere un po' più nervose delle settimane precedenti. Gli investitori sono rimasti concentrati sulle numerose trimestrali, sulle nuove indicazioni di politica monetaria fornite dalla Banca Centrale Americana, ma anche dalla Banca Centrale del Giappone, poi il prezzo del petrolio che ha continuato a recuperare terreno. La Federal Reserve non ha fretta di alzare i tassi, ha lasciato intendere nel meeting di mercoledì scorso. Molto dipenderà dai prossimi dati macroeconomici. Hanno deluso le trimestrali di Apple e Twitter. Complessivamente oltre il 55% delle aziende quotate sullo Standard & Poor's ha pubblicato i conti e le notizie non sono buonissime perché gli analisti prevedono un nuovo calo dei profitti ed è il terzo trimestre consecutivo che questo calo si manifesta con le inevitabili ripercussioni in borsa. Il petrolio, dicevamo, continua a recuperare terreno. Venerdì il Brent di Londra ha superato i 48 dollari, il greggio americano i 46, livelli che non si vedevano dal novembre scorso. Per quello che riguarda i temi di Piazza Affari, scontato ribadire l'attenzione sul settore bancario. Venerdì il Consiglio dei Ministri ha finalmente dato alla luce l'atteso decreto per il rimborso agli obbligazionisti vittime delle quattro banche oggetto del decreto salvabanche dello scorso anno. Poi Azimut ha dato il via libera alla propria riorganizzazione interna che ha avuto il benestare della Banca d'Italia. Ha fatto il botto Saip, il titolo ha preso il volo dopo la pubblicazione di una trimestrale ben superiore alle attese che ha consentito alla società di archiviare definitivamente la brutta parentesi del recente aumento di capitale. Sotto osservazione anche il mercato obbligazionario perché il bot ha sei mesi ha registrato il nuovo minimo storico del suo rendimento in territorio negativo. Per quello che riguarda, prima di concludere, i temi da tenere sotto osservazione questa settimana, oggi sono chiusi per festività i mercati di Shanghai e Hong Kong. Alle 16 abbiamo un nuovo intervento pubblico di Mario Draghi. Venerdì arriva il dato sulla disoccupazione americana di aprile. Oggi arriva la trimestrale della Ferrari e poi in settimana molte altre. Stasera conosceremo anche i dati dell'andamento del mercato dell'auto in Italia. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alberto Orioli. Il CIPE del 1° maggio ha sbloccato un lotto importante di finanziamenti, si tratta di 2,5 miliardi destinati al Piano Nazionale per la Ricerca e sono fondi previsti e contabilizzati da qui al 2017 tra stanziamenti presenti nel bilancio del Ministero appunto della Ricerca, 1,9 miliardi e 500 milioni che fanno parte della quota nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione Europeo che sono rimasti in forze fino all'ultimo. Per la verità il valore complessivo legato al Piano Nazionale della Ricerca potrà anche essere più elevato e potrebbe superare tra risorse nazionali e comunitarie i 13,5 miliardi nel complesso. In ballo tra programmi operativi regionali e Horizon 2020 ci sono 9,4 miliardi da qui al 2020 per l'appunto e per ottenerli tutti l'Italia dovrà assestarsi su un tasso di aggiudicazione dei progetti comunitari del 10%. Un risultato però tutt'altro che scontato considerando che l'ultimo aggiornamento risalente a 30 ottobre del 2015 ci dava un tasso dal 7,8%, quindi su quasi 12 miliardi di finanziamenti quelli coordinati da un team italiano hanno incassato poco meno di 1 miliardo, 940 milioni e 484 mila euro. Il piano per la ricerca si basa su 7 grandi pilastri, internazionalizzazione, capitale umano, programma nazionale delle infrastrutture, cooperazione pubblico-privato, ricerca industriale, efficacia e qualità della spesa, programma per il mezzogiorno. Si tratta di obiettivi a maglie larghe, come si vede, andranno declinati, si spera, in modo da rispettare due priorità, la valorizzazione del capitale umano dei nostri talenti e la crescita del prodotto interno lordo, in modo da creare sviluppo, sviluppo vero, moderno e sostenibile. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.